Vangelo di Matteo, capitolo 14. In quel tempo Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: «Costui è Giovanni Battista, egli è risuscitato dai morti, e però agiscono in lui le potenze miracolose». Perché Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perché Giovanni gli diceva: «Non t'è lecito d'averla». E benché desiderasse farlo morire, temette il popolo che lo teneva per profeta. Or come si celebrava il giorno natalizio di Erode, la figliuola di Erodiada ballò nel cospetto e piacque ad Erode, ond'egli promise con giuramento di darle tutto quello che domanderebbe. Ed ella, spintavi da sua madre, disse: «Dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista». E il re ne fu contristato, ma a motivo dei giuramenti e dei commensali comandò che le fosse data, e mandò a far decapitare Giovanni nella prigione. E la testa di lui fu portata in un piatto e data alla fanciulla, che la portò a sua madre. E i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono. Poi vennero a darne la nuova a Gesù. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte, e le turbe, saputolo, lo seguitarono a piedi dalle città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande moltitudine e ne ebbe compassione, e ne guarì gli infermi. Or facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: «Il luogo è deserto e l'ora è già passata. Licenza dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non hanno bisogno d'andarsene, date lor voi da mangiare». Ed essi gli dissero: «Non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qua». Ed avendo ordinato alle turbe di accomodarsi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. E tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via dei pezzi avanzati 12 ceste piene, e quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre le donne e i fanciulli. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca ed a precederlo sull'altra riva, mentre egli licenzierebbe le turbe. E licenziatele si ritirò in disparte sul monte per pregare. E fattosi sera, era quivi tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «State di buon animo, son io, non temete». E Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciò a sommergersi e gridò: «Signore, salvami». E Gesù stessa subito la mano lo afferrò e gli disse: «O uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono montati nella barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono dinanzi a lui, dicendo: «Veramente tu sei il figliuolo di Dio». E passati all'altra riva, vennero nel paese di Genazaret. E la gente di quel luogo, avendolo riconosciuto, mandò per tutto il paese all'intorno, e gli presentarono tutti i malati, e lo pregarono che lasciasse loro toccare non foss'altro che il lembo del suo vestito. e tutti quelli che lo toccarono furono completamente guariti.